Jean-Marie! Baptisio! Jean-Marie, questo non è giugno! Non c'è! Vabbè, scommetto! Vabbè! Oh, disgraziato! Tu sì che te ne freghi! Sono in pensione, il muro non c'è compreso, ritorno a lavorare! Sì, domani mattina, agitami presto! Ok, certo, già... ci sentiamo dopo, ok, ciao! Ciao, Marino! Attenzione Gian Maria! Attenzione Battisio! Battisio! Gian Maria! Battisio! Ah, c'è Battisio! È fuggito! E allora? Sì, Antonetta! Se ti fai intendisci! Stamattina al centro storico devi vedere quello che ne è sceso, cazzo! 5 sono scesi, uno in fila all'altro! Vicino a San Donato! Ah, di cosa? Di fulmini? Sì, ti sto dicendo adesso che mi sono stato dentro al circolo veloce. Uno che stava filmando i fulmini, ho detto rimani fuori, vai che così ti piglia in pieno. Non scendono lì, ci sono le chiese che hanno i parafulmini. Sì, non me ne sono accorti infatti, 5 ne sono scesi, uno in fila all'altro. Ma lì zocco. Sai che è così, dove scende fa Tokumaru fino alla 1:15, 1:30 l'ha fatto, dopodiché sparito tutto. Sono temporali d'estate quelli, si chiamano temporali d'estate che rovinano tutto. Io me ne sono accorto infatti, prima erano sempre le verruie a carbolate, stamattina questa sera al centro storico è partito la vera operatoria, si è partita, gli ho detto vai a fanculo cazzo, è tonto. Prima 3 giorni qua partivano dal quadrato in su, questa volta che sono sceso al centro storico sono partiti dalle porte in su, ma veloce hanno fatto per salire. Quelli sono partito non solo da Portatore, ma anche da Castel Sardo, tutta quella zona lì ha preso, ed è giunta chi si abbassi. Credo di vedere stamattina lì alla... i fulmini che ne sono scesi un paio dove c'era l'ex appelle, in pratica quello che vogliono buttare, due di là sopra, tutti gli altri, tutti vicini, attaccati alla chiesa che c'è, capito, vicino a via San Donato. Ma già c'hanno i parafulmini lì, li attirano. Per quello sono sceso tutti lì. Io mi sono accorto di zocco, ma zocco, sembrava che ne fosse sceso mezzo muraglione. Si ne è sceso tutto il rabaghissu. E infatti, per carità, guarda, ne sono salito stamattina, lì c'è tutto il rabaghissu, perché sono andato fuori, passavano le macchine, è stato tutti i pantaloni bagnati, compreso il come si chiama l'aorto. Te ne hai fatto un bagno, te ne hai fatto, non te lo sei fatto due, te ne hai fatto un altro. Sono sceso tranquillo, non c'era nulla, né niente, ma è tempo di un'ora, un'ora e mezzo. Ho preso un bello, gli ho detto sono sicuro che non piove, invece mi è partito tutto quanto da lì, io pensavo che pioveva da questa parte, no, da giù. Non lo sai, è passato in Oghi, e poi è passato in Chivia al centro, e poi è salito alla parte di su. Già lo so, già l'ho visto infatti, tutto sta caricando, mi verso così va messo. Sì, è tutto in giro, ma ha messo solo nuvoloso, non ha messo pioggia. È lontana la pioggia da qua. Sa, a domani mangiare ha messo variabile. Mi aiuta a cagliare, cazzo, ogni acqua in chili, cocco. Non ti piace, no? Io allagato tutta che c'è zoni. Se è stato l'acqua che ha fatto di lì a centro storico, avessi visto il corso Vittorio Emanuele come un fiume, avessi visto come mio. Le capire sarebbero riempite. gli hanno visto che c'è zona, sta tranquillo che non c'era in quella zona lì. E lui stamattina, perché sono sceso a prendere un coso, uno stereo, che poi è in corto, non aveva la mia canapa da aggiustare. Capito? E sono sceso lì per quello. Poi volevo salire subito, invece l'ho fottito. Ma io ho detto, un tubo mi muovo, ho detto io. Non lo sarà, aspetto, ho detto. Aspetta fino alla una. Poi ho preso la 8. Al volo sono salito qua. Hai fatto bene, hai fatto. Io ce la facevo a prendermi a... il coso, la 5 con i fulmini che c'era, non saranno, poi lì mi viene un bel all'aperto, meglio niente. Guarda che non ne scendono mi, tutti quanti lì in quella zona, in tutta Sassari già ci sono i parafulmini, a Puglia, e nei zombie, poi nelle chiese che ci sono, ce li hanno tutte le chiese. E mi sono accorto. Una bella scarica mi ha fatto, ma scaricami 5, 6, tutti in fila. Boh! E se li attirano, le chiese se li attirano molto. Allora, aspetta il telefonatica. Senza il signor Marchisio! E chi è? No, non lo vogliamo a ciucciucci, no. Cerca se squalo senza pinne. Ehi, signor Bacchi! Ehi, buonasera, signor squalo senza pinne, come va? Ehi, cazzo! Salutare i gesti e un quarto già menditi. Il macchina non ho giù butto oggi, non ho giù butto, l'antenna è dentro la macchina, non ho giù butto l'antenna, capito? Oh, non hai messo nulla. E in questi giorni come mai non state entrando? Perché la funghi. No, me la va, uia. Io non ho avuto tempo questi giorni, no, no, no. E allora, signor Bacchi, cosa mi racconti? Sono diventato un raio preparato. Non ho capito, no. Preparati lo mio, hai fatto un raio, quando stai parlando tu, si è spento. Oh, certo, ma quale? Il coso, l'Inter. Infatti, oggi non segna neanche il coso. Per quantimetro non funziona. Ma vuol dire c'è qualche cosa? Qualche cosa ci deve essere? Sta funzionando fino all'altro ieri, funzionava benissimo. Adesso, punto zero. Ah, ci sarà il fusibile bruciato, no? Il fusibile intero. Qualche cosa, qualche difetto di massa, invece qualcosa che non fa, che fa massa si spegne, perché fino a funzionava benissimo. E allora vedere dentro se c'è qualche cosa che non che tocca e non tocca. Infatti, è qualche fulmine ha fatto un raggio. Ma no, no, che vicino ve ne sono parati. Ieri notte si vedevano qua vicino. Ma no, qua non è successo nulla di cose. Ce ne sono parafulmini qua vicino. Ne abbiamo parecchi. E tu ne hai più vicino qua, quello della chiesa. E a chi? Io non capisco, mi mangio tu io. Laggiù. Laggiù la chiesa e i palazzi che sono sopra. Sulla chiesa, e poi anche la cosa, cioè il grattacielo, sono le antenne del telefono. Anche lì ci sono. Lì ce ne sono due, ce ne sono lo stesso. Anche l'altro che c'è giù, il grattacielo, vicino a Graziano, ce ne sono due. E ci è andato. Deve essere qualche cosa che tocca e non tocca, che non te lo fa funzionare. Adesso prova a spegnere e riaccendere a vedere. Prova a vedere. C'è qualcosa che non va. Qualche cosa che mi pare che non ci sia qualche cosa nel filo invece. No, il coso funziona molto bene. I numeri si vedono bene, i display non funziona, lo Twitter non guarda se funziona. Ma non accende per niente? No, gli display no, il frequentimetro no. No, si accende solo lo zero, l'ultimo è lo zero e il puntino in mezzo, l'altro si accende per nulla. L'altro giorno non funzionava lo switch, adesso lo switch sta funzionando, però non funziona, adesso qualche falso contatto. Sì, qualche saldatura che non è fatta bene. Fredda, fredda. Saldatura fredda. Poi è tutto controllato bene, le saldature fatte bene. E infatti. Stazionale siamo a 1 e 2. Ehi, andavi allora, a Puglia. No. Sì. Andavi, se non fa bene lo facciamo andare bene noi. Basta baciarvi. E il Tormalino, ho sentito. Ma che fa, l'ho sentito. Ma vado, ciao, ci sentiamo più tardi. Stiamo facendo la partita del calcio con il nipote allora. Sicuramente. Si fa la partita del calcetto la sera. Sicuramente sì. Signor Figaro. Da ieri che non lo sento. L'ho sentito ieri e poi boh. Oggi non ho sentito per niente. Allora sei inappanato con la pioggia. Deve essere che gli è entrata qualche po' di pioggia in campagna. Innaffiare non puoi innaffiare, già è innaffiato abbastanza. Sono da raccogliere un po'. Giulio non si sente lo stesso. Graziano, via con le patate. Oh, Graziano, lascia un poco, io. Sono più dei due ghetti che non li intendo. Io l'ho visto l'altro giorno. Stavo parlando con Ferrere, sono in Piemere, stavo andando, è perché è più facile. Ogni tanto lo sento lì, però sono due settimane che non lo sento. Perché in cucina, secondo dove si mette riceve, secondo dove si mette non riceve. Infatti gli ho detto anch'io, cercassi un punto buono. L'unica cosa è andarsi sul terrazzo. Ma se fendeva sul terrazzo non vi bussa. Ma così biglia. Che andiamo e andiamo. Chi non si fondi? Non la finisce uno, questa frequenza sta morendo, direi che è morta. Oh, sino a ieri c'era gente a Puglia. Questi giorni già stanno entrando. Oh, capito. A Giulio non sento la parecchia, non sento Giulio. Non so se è guarito, se è tutto è rimasto a posto. Oh, e a mano già entrano tutti. Adesso perché ci sono un po' di temporali. Le fede anche. Poco fa c'era anche Antonello, c'era. Pompugno. Pompugno, ce n'ha un quarto d'ora fa. Non è morto adesso. Pompugno. Antonello Pompugno. No, non ne posso sapere. Sta facendo, tutta a pezzi l'hai da sta facendo. 27.255. Antonello, oggi deve darsi assentato un gaccuno. Con la bionda si è assentato. Con la Seburro, si è appiattato la quattrona a mezzodì, a luna. La quattrona a mezzodì, ogni avuteggio. Giudicaggi, certo. Poi era grande la burro, mesciata. Oh, tu già in casa hai? Lei ha fatto interprete per arrivare a casa e a fare nell'aria. Certo. Mi ha fatto ogni avuteggio. Anche se lui ha solo 20 casa, ma poi vai su di piante. Ci mi in garage, ma mi ha avuteggio. Infatti. C'è così, piano piano, la paga, cominciamo a rientrare tutti quanti. Piano piano. Piano piano, intanto via va. Tempo caldo se sta andando, dunque devi rimanere per forza a casa. Ce n'è ancora del gas da battere? Mi pare che sia finito. Domani ci abbiamo torno temporale. Ma da sabato ha messo buono, ha messo sabato, domenica, e da lunedì ha messo buono. Speriamo. Speriamo faccia un po' di tempo buono, perché adesso basta. Basta questa pioggia, ci voleva, perché era tutto asciutto. Adesso basta, un po' di sole ci vuole. Senza vento. Io devo scendere lunedì presto, devo scendere a Olbia con il treno, perché arriva mia figlia e poi si piglia la macchina al noleggio. Arriva a Olbia, la nave o in aereo? In aereo arriva, da Londra viene in aereo, viene. E poi con la macchina passiamo a prendere da Lupa. Ah, capito. Fai tutto un giro, fai. Allora, lunedì presto devi viaggiare. Sì, alle 8 mi prendo il treno e poi arrivo alla stazione di Olbia e mi devo pigliare un bulma per l'aeroporto. Ah, non vai con la macchina tua? No, deve prendere la macchina a noleggio dall'aeroporto. Ah, la prende all'aeroporto, ma che a noleggio, allora sì. Allora sì, va bene. Vai in treno e scendi in macchina. Infatti, scendo in treno e salgo in macchina pure. Va benissimo. Va benissimo. Sì. Forse il mio genero viaggia lunedì per Olbia, te lo dico, ti faccio dare un passaggio. Per dove? Per Olbia? Da qua all'aeroporto di Olbia? No, lui è una cosa, Olbia città, lui fa l'autista delle ambulanze. E bisogna vedere se c'è il giorno, perché un mucchio di volte gli capita il lunedì di rientrare. Viene il venerdì e rientra lunedì. Se questa settimana ha lo stesso turno, te lo faccio sapere. Guarda, vedete, se no sabato mi porterò un biglietto, sabato o domenica mi porterò un biglietto, non ce ne sono problemi. Sì, ma il treno quando ci mette? Il treno non ci mette, ma dove vuoi il treno? Ma adesso dice che parte alle 8 e arriva alle 10 meno 10 alla stazione di Olbia. Sì, per me c'è in macchina un'ora sera. In macchina un'ora. Vabbè. Faccio sapere, chiedo Mario se rientrato, se rientra domani, se rientra domani va lunedì a lavorare. E cosa ti faccio sapere, perché ci sentiamo in radio tanto. Ehi Abacchi, facciamo così, fammelo sapere. Ma senz'altro, non c'è un problema, intanto almeno lo viaggio in compagnia. Se no ti chiamo, ma te si goza, allo telefono. Non ti piace uno squillo di telefono, non c'è un problema. Adesso chiedo Mario quando rientra. Capito? Mario deve rientrare da Olbia. Bisogna vedere se parte lunedì mattina oppure domenica mattina. Bisogna vedere un po'. Fammi sapere e poi vediamo. Faccio sapere. Lo faccio capire tutto. Il primo della frequenza si è affacciato a 27.255. Cosa? No, cosa? La frequenza del metro si è acceso. Oh, cosa della frequenza? Vuol dire, si butta a pulso. Ha portato una nuvola, mi voleva. Ah, se la voleva. Apri una paracqua. Vabbè, dai, Bacchi, ci sentiamo domani, ci sentiamo. Ok. Ci sentiamo, alle prossime. Sì, attore, anche l'infermiere va a parola, giusto. Ciao, ciao, salutissimi, saluta la signora, buon carica, buon tutto, a domani che si concide. Ciao, buonanotte. Ok, ciao Bacchi.